Ed eccoci qui, allora torniamo in diretta. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Ernica da Marco Dagnaboschi, che vi saluta di nuovo insieme a Giuseppe Russo, insieme a Francesco Sordi, insieme a Daniela Pesoli. Daniela, finalmente ti abbiamo nei nostri studi. Aspetta, devi accendere il microfono, non hai reminiscenze radiofoniche. Prego, adesso eccoci sentiamo. Qua, no, beh, questo era un lavoro che doveva fare il tecnico, hai evidentemente, ragione, scusa, hai ragione, chiedevo, hai molto scarsi dal punto di vista tecnico. Ragione, buon Natale, Daniela. Grazie, buon Natale, soprattutto buon anno, ormai siamo agli ultimi giorni dell'anno, quindi tantissimi auguri a voi, a tutti gli ascoltatori, a tutti. Allora, quale emozione nel rivederti sulle onde della modulazione di frequenza? Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, Daniela era una delle voci storiche della nostra radio. Abbiamo già avuto modo di parlare con te di questa cosa della radio, dei tuoi ricordi, delle tue emozioni con la radio. Allora, abbiamo anche chiesto a te che rapporto hai con la radio, insomma, diverse domande le abbiamo già esaurite tutte, però insomma, qualcosa da dire ancora c'è, no? Sì. Senz'altro. Prego, che cosa ascoltiamo. Vuoi sapere esattamente? L'argomento il rapporto è... con la radio è pessimo perché l'ascolto pochissimo. L'ascolti pochissimo. Quindi comincio proprio male, insomma. Perché sei in redazione, vero? Per mancanza di tempo e perché non sono una di quelle che la mattina si alzano e accendono la radio. Ah, non accendi la radio? Assolutamente no. Cioè, domanda, la mattina quando invece della radio della sveglia, diciamo, svegliarti con la radio accesa ti mette di cattivo umore? Non preferisco il silenzio la mattina. Ah, preferisci il silenzio, quindi non appartiene alla categoria di quelli che invece la prima radio cosa che fanno è accendere la radio. Come il sottoscritto, naturalmente. Ti manca un po' la radio? Sì, come esperienza senz'altro, come modo di lavorare, come creatività, come modo di rapportarsi con la gente, sì, senz'altro. Senti, ma ricordi in particolare un episodio curioso di questa radio, di questa tua avventura insieme a questi signori che, diciamo, insomma, ormai incominciano anche ad avere molti ricordi, visto, insomma, ma nel senso che abbiamo iniziato giovanissimi, Giuseppe, esatto, perché noi siamo molto giovanissimi. 12 anni, 11 anni, quindi ecco perché sono passati tanti anni, insomma. Beh, questa precisazione, Marco, mi sentiva la necessità. Prego. Ma un ricordo particolare, no, tantissimi episodi, qualcosa di divertente. Sì. Quando avevamo degli ospiti un po' particolari, adesso non facciamo nomi, insomma, però magari ci divertivamo, ecco, a sparlare un po' dopo, magari se c'era qualcosa di particolare, sempre con molta simpatia, ovviamente. Ma ci mancherebbe. Senti, Daniela, come passa? Domanda proprio da quattro soldi, insomma, tu che sei abituata a fare le domande impegnative, come è passato il Natale? È passato bene? Natale a casa con la famiglia e Natale poi in un'attività di volontariato, però non vorrei fare pubblicità su questa cosa. Infatti, anche se a me sinceramente piacerebbe sentire un po' di queste esperienze, magari fuori dal comune, come si suol dire, fuori dal seminato, diciamo. Ci sono molte persone che fanno scelte come hai fatto tu, rispetto il fatto che tu non ne voglia parlare, però molte persone dedicano il Natale il o il giorno Natale, dopo sì. di Natale invece a cose al fianco di persone che esatto, hanno bisogno, che non sono fortunate, che magari proprio in quei giorni di Natale, i giorni di festa in genere, sentono maggiormente il peso della loro solitudine, dei loro problemi, dei loro della problemi. Loro disperazione a volte. Certo. Senti, Daniela, vicino a te c'è Francesco Sordo, che è stato un tuo collaboratore, adesso invece è l'opinionista di Radio Ernica. Ci racconti qualcosa di Francesco, come si comportava quando era da te? Ma Francesco è bravissimo a scrivere, purtroppo ha lasciato questo lavoro e ci è dispiaciuto ovviamente, perché è veramente bravo, devo dire la verità. Io ho notato che Francesco, Daniela, fa una trasmissione, forse prima ci ha ascoltato, e si prepara proprio minuziosamente, viene molto qui preciso. Con notizie, dati, un po' un secchione sotto certi aspetti. No, è una persona seria, una persona che quando fa le cose le fa... Però devo dire che io ho altri collaboratori, altri colleghi che sono così. Ecco, quindi... Poi mi piace lavorare con le persone serie, insomma. Ho capito. Senti, c'era un mio amico che diceva... spesso, che tu conosci probabilmente, diceva cosa si dice di me, cosa si dice di me. Allora, abbiamo ricominciato da poco a trasmettere, nel senso che con questa intensità con le dirette, cioè, che si dice di Radio Ernica? Beh, Radio Ernica credo che per Anagni sia stata una realtà veramente importante e consolidata nel tempo. Il ritorno credo che abbia fatto piacere a molte persone. Bene. A quelle che già la conoscevano, perché una cosa che mi colpisce molto, che mi fa molto piacere, è che delle persone ancora mi salutano, mi ricordano come quella di Radio Ernica. Se consideriamo che sono passati insomma un paio di decenni, beh, la cosa fa sicuramente piacere. Quindi è stato un piacere per chi la conosceva, ma anche per le persone che magari non hanno mai sentito Radio Ernica e adesso hanno il piacere di ascoltarla. Ci sono delle persone che fanno anche gli spiritosi qui dentro. Bene, ecco, a proposito di persone che fanno gli spiritosi, io vorrei che tu cedessi un attimo il microfono a Francesco Sordo che ti sta accanto. Un piacere. Allora, vediamo invece da un'altra angolazione Daniela Pesuri, che era il tuo capo praticamente, il tuo responsabile. Come si comportava? Ma insomma aveva l'abitudine di prendere tante ferie, era una persona che, no scherzo, ho un ricordo bellissimo anche perché ho imparato tanto, perché a scrivere si impara non solo a scuola, si impara anche da chi scrive meglio, quindi questo senza dubbio. Poi ho imparato anche la tenacia nella ricerca della notizia, che non è una cosa semplice. Certo, quindi era autoritaria, era perentoria quando stavi sul pezzo, cosa ti diceva? No, era molto sottile, diciamo. Molto sottile, ecco. Quindi era un po' una cosa blanda, diciamo. Sì, sapeva cogliere il centro senza, diciamo, sì. Mirare... Ho capito. Allora, chi invece Daniela Pesuri la conosce, adesso facciamo il Daniela Pesuri Day praticamente, chi invece conosce bene la giornalista che abbiamo il piacere di ospitare è il signor Franco Cecconi, che ricorda anche i tempi passati, voglio dire qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, insomma, i tempi della scuola. No, stiamo vedendo un attimino di tirar fuori alcune notizie, curiosità che magari i nostri ascoltatori non conoscono. Ecco, qualche anno fa, ripeto, 2 o 3 anni fa, Daniela Pesuri e Francesco Cecconi partivano da Anagni con la Corriera per recarsi a Colleferro. Molle, il vettore era Molle, giusto? Sì, prima dell'Agotral, cioè del Cotral e quant'altro. I due ragazzi partivano da Anagni per recarsi a Colleferro per intraprendere gli studi che li hanno portati naturalmente ad approfondire i rudimenti della chimica. Perché voi ascoltate, dovete sapere che questi due ragazzi sono due esperti di chimica. Siamo periti industriali capotecnici specializzati in chimica industriale. In chimica industriale. Scusate se poco. Ecco, poi mi spiegherete cosa ci fa un chimico industriale nel mondo del giornalismo e un chimico industriale nel mondo dell'informazione, della radio e delle poste. Poi me lo spiegherete, insomma. Allora, Franco, come era Daniela Pesuri, come si suol dire, da Utra? Ah, una ragazza estremamente impegnata. Di che si occupava? Partecipavamo entrambi al collettivo studentesco dell'Istituto Tecnico Industriale Cannizzaro. Ma sto sentendo collettivo? Collettivo. Ma si può dire questa cosa, Daniela? Certo, collettivo. Era una cosa di che genere, di orientamento? Al circolo culturale sempre del che faceva capo al nostro Istituto Tecnico. Forse non tutti sanno che c'è stato anche un pre-Radio Ernica alle nostre esperienze radiofoniche, certo, perché a Colleferro sorse nel 1977 Radio Mafalda. Radio Mafalda. Durò credo 2 mesi. Ah, voi avevate avuto già dei contatti? Abbiamo avuto già dei contatti con Radio Mafalda. Questa non la conoscevamo. Il problema era mettere d'accordo le varie anime di questa radio, perché c'erano maoisti, comunisti italiani, socialisti, anarchici. Praticamente un panorama molto variegato. Ogni assemblea praticamente era un bailam pauroso, e alla fine la radio chiusa. Beh, erano i tempi di Cossiga con la K, insomma, tanto per inquadrare il momento storico. Poi diciamo. Ecco, c'è anche da dire che a Colleferro abbiamo anticipato, invece del 77, come tutti siamo abituati ad ascoltare in Italia, a Colleferro abbiamo fatto il 76. Abbiamo iniziato esattamente 6 mesi prima a fare casino, quindi siamo stati anche questa, dei precursori. Questa primogenitura. Senti Franco, ma la ragazza... No, ma poi ecco, c'è anche un'altra chicca, la famosa redazione aperta che abbiamo pubblicato per tanti anni, è stato un giornale, il nome di un giornale scolastico, pubblicato proprio nel nostro istituto tecnico, che si chiamava appunto Redazione Aperta. con il quale collaboravamo sia io che Daniela. Senti Franco, ma la ragazza quindi aveva già all'epoca questo spiccato senso dell'informazione? È vero che già redigeva dei piccoli comunicati stampa scolastici, teneva il registro di classe dei comunicati dei ragazzi, andava sempre in giro con un block notes, è vero questo? No, assolutamente no. Queste sono leggende metropolitane che smentisco in maniera netta e decisa. Era una ragazza estremamente impegnata. Ci divertivamo pure. Senti, facevamo gli scherzi telefonici agli amici. Senti, ma entriamo ancora un po' nel gossip. Ma è vero che lei veniva a scuola con il sandaletto blu, quello che si metteva all'epoca, con il calzettone, con le codine? No, all'epoca andavamo con i calzoni a zampa d'elefante, andava di moda in quel periodo. Bene. I sandaletti blu, no, non me li ricordo. No, non mi pare. No. Non, a me hanno detto questo. Poi aveva i capelli a caschetto, bellissimi capelli a caschetto. Ecco, dovrei chiedere a Daniela. Molto, molto corteggiato, tra l'altro. Quindi, certo, dovrei chiedere a Daniela invece notizie sul tuo di abbigliamento, ma quello credo che sia. Ma non è variato, non è variato di molto, esatto, da 30 anni, cioè, a questa non parte. Non ti vesti, tranne, ma ti copri semplicemente. Tranne i calzoni a zampa d'elefante, sì, sì, sappiamo quando torneranno di moda li tireranno fuori dalla naftalina. Sappiamo che tu ti copri e non ti vesti. Bene. Beh, mi sembra un bel quadretto, diciamo, in effetti, molto simpatico, di uno spaccato di vita di due personaggi. Diciamo che addosso a me anche una saccoccia di sdriga fa il suo effetto, diventa un capo elegante. Quindi con accade il contrario. Quindi ti vesti con... puoi mettere anche i capi eleganti, ma alla fine anche un Versace risulta una saccoccia di sdriga. Va bene, allora ritorniamo a bomba sulle questioni un po'... diciamo un po' impegnative. C'è Aurelio che vuole intervenire, sentiamo. No, prego. Prima di passare alle cose serie, sì. Daniela, cosa hai mangiato a Natale? Beh, questa mi sembra cosa seria proprio. Cosa non ho mangiato? Il famoso cappone lo hai mangiato? No, il cappone non l'ho mangiato. Allora, la vigilia ho cucinato io, però il cappone non è mia tradizione, il cappone. Ah, quindi non è tua tradizione il cappone natalizio? Non no. Sta nelle tue cose, insomma, nella no, tua non, dieta no, mediterranea. No, il cappone non c'è il cappone. Benissimo, torniamo alle cose serie. Questa curiosità era dovuta, chiaramente. Legittima. Allora, torniamo alle cose come serie. I capponi, poi. Dopo aver fatto uno spaccato di vita passata, diciamo, di racconti che diciamo fanno un po', come dire, ci fanno un po' tornare indietro di qualche anno. Torniamo invece alla tua attività professionale e a quanto fai ogni giorno. Ecco, non tutti sanno come si sta dietro a una notizia, cioè facciamo un'ipotesi, ricevi una telefonata e praticamente ti viene data una notizia, cosa fai? Beh, intanto la prima cosa da fare è verificarla. Ecco, per verifica che si intende? Dipende intanto la fonte qual è, se è una fonte attendibile, se lo è meno, se è una fonte istituzionale, se è una lettera, è una telefonata anonima, perché arrivano anche quelle, insomma. Quindi arrivano anche telefonate anonime, logicamente. Di tutti i tipi, cioè le fonti sono tantissime e vanno sempre verificate. Cioè, se si parla di una persona che ha fatto una certa cosa, si va magari a sentire proprio la persona per vedere se è veramente successa questa cosa. La verifica è essenziale. È la prima cosa. Certo. Senti, prego. Senti Daniela, volevo sapere, conoscere qualche particolare, diciamo, della tua attività professionale. Innanzitutto, che anche tu hai avuto un'esperienza. Sì, anch'io sono stato un redattore, un cronista di Sociaria Oggi, proprio nel momento in cui Sociaria Oggi incominciava, diciamo, a muovere i suoi primi passi, grazie a Pasquale Bruno, che iniziò appunto questa avventura ad Anagni, insomma, io ho fatto questa esperienza. È stata una bella esperienza, si è interrotta purtroppo non proprio serenamente, comunque il mio rapporto con Sociaria Oggi è rimasto sempre buono. Rigorosamente gratis. Volevo sapere qual è il tuo rapporto, il rapporto che hai con il tuo staff, quindi con i tuoi colleghi di Anagni, e poi qual è il rapporto che tu hai con l'autorevole editore di questo quotidiano? Ma coi colleghi credo un buon rapporto, insomma. Il rapporto più diretto è con la redattrice che è nella redazione di Anagni, che è Monica Cesaritti, ed è una persona veramente valida, quindi il rapporto è buono, si collabora, diciamo che abbiamo le stesse opinioni su tante cose, quindi questo sicuramente aiuta anche il rapporto che c'è quotidianamente. Con l'editore c'è un rapporto di rispetto, naturalmente, c'è un rapporto di collaborazione. Senti Daniela, la domanda che ti faccio riguarda sempre il tuo lavoro. Dice, ma stasera mi chiedete solo del mio lavoro, quindi come se tu non avessi invece anche una vita privata, altri interessi, altre curiosità, anche se mi rendo conto, insomma, che chi fa il tuo lavoro probabilmente di spazio a disposizione ne ha veramente poco. Allora, come secondo te è cambiata la società anagnina e quindi anche provinciale con l'avvento dei giornali locali? Ma è cambiato molto, perché intanto ormai è difficile nascondere qualcosa che succede, quindi di qualsiasi cosa se ne parla magari da diversi punti di vista, però è cresciuto sicuramente il dibattito sulle cose che succedono. E poi è cresciuta anche un po' molto la vanità dei politici, soprattutto con i giornali locali. Quindi amano mettersi in vetrina, diciamo. Amano molto mettersi in vetrina, ma è anche normale, voglio dire, un'attività come quella dei politici, che comunque ha bisogno di comunicare con la gente. Chiaramente il quotidiano è il modo più semplice, più diretto, più veloce per far conoscere i propri impegni, le proprie proposte. Senti, ma sappiamo che appunto tu, insomma, sei arrivata a questa attività, ma voglio dire, avresti potuto fare tranquillamente un altro lavoro, insomma, occuparti di altro, seguire altre cose, diciamo. Sei un po' pentita di aver fatto questo, di questa scelta, che questa in effetti è una scelta un po' assolutistica. Chi fa il giornalista è un po' un sacerdote, è un po' un medico, è un po' un carabiniere, è un po', cioè, una persona che comunque dedica la sua vita in maniera molto intensa alla propria professione, diciamo. Beh sì, è chiaro, è un lavoro che comunque sei sempre in servizio, proprio come carabinieri, nel senso che ti può capitare qualsiasi cosa a qualsiasi ora, anche quando sei in ferie, quando sei il giorno di riposo, questo sì. Beh, la mia non è stata proprio una scelta, comunque, devo dire, è stata quasi una... Ma c'è stato qualcuno che ti ha indirizzato a questa attività o diciamo è venuta un po' così da sola, diciamo? Ma credo che sia stata anche una conseguenza della mia attività con la radio, questo è molto legato. Certo. Cioè, tutto partito da qui, insomma. Certo, quindi non sei pentita, lo rifaresti? Sì, penso di sì, però sono altre cose che mi piacerebbe fare. Ho capito, quindi ti piacerebbe chiaramente dedicarti un po' ad altre cose. Senti, sto per concludere, ma ti occupi, domanda così, curiosità, ma per esempio ti occupi di sport tu? No, non mi occupo di sport. Quindi non, e come non giornalista mi piace. non saresti in grado di farlo? Assolutamente no. Quindi non saresti proprio condizione. Non sarei proprio in grado, perché veramente non conosco, non so. Ho capito. Quindi è un campo proprio che mi è proprio sconosciuto. Invece molti giornalisti so che sono partiti magari dallo sport per poi andare a finire a tutt'altro campo, diciamo. Invece a livello vostro, diciamo, non succede questo, chiaramente. Quindi c'è chi ha... Beh, ci sono delle persone, soprattutto donne ultimamente, che si occupano di sport, ma non credo che sia una questione di uomo o donna come conoscenza, certo. Credo che sia una questione di passione. Anche molte donne hanno la passione per lo sport e lo seguono. A me non piace proprio lo sport, quindi non sarei neanche capace di seguirlo, insomma. Senti, ultima cosa, ma mi chiedevo, guarda, veramente, credimi, dice, ma che domanda è questa? Però con il lavoro che fai... ti capita spesso anche di fare articoli quando le persone vanno via, passano a miglior vita, diciamo. Ora io non lo so, mi chiedo, cioè è la parte un po', come dire, umana del lavoro, no? Ti sarà capitato di farlo magari con persone che non conoscevi e di fare, come si dice, il coccodrillo, è questo il termine che mi pare si usi nel mondo del giornalismo, no? E di fare il coccodrillo magari invece per un amico, per una persona cara, che effetto ti fa in effetti? Ma guarda, io credo che bisogna proprio scindersi a quel punto, perché deve prevalere in quel momento la parte professionale. Quindi riesci a separarle le cose. Altrimenti non ci riesci proprio. Non ci riesci, certo. Questo capita anche, è capitato purtroppo in tanti questi anni. Cos'è anche... il cinismo del giornalismo? No, credo che sia una questione anche di professionalità. Di professionalità. Insomma, non di cinismo. Capita anche incidenti stradali, capitano, certo, cose, la cronaca nera, che poi devo dire è la cosa che io preferisco. Addirittura? In che senso, scusa? Mi piace la cronaca nera. Cioè, ma in che senso? Non ho capito bene, spiega. Mi piace la cronaca nera, mi piace occuparmi di cronaca nera perché parla delle persone. Beh, le persone fanno brutta fine, però, voglio dire, no? Cronaca nera non è necessariamente, certo, l'incidente, no, per carità, stradale, però voglio dire, insomma, è un magari po' di tutto. Anche un'incriminazione, un fatto, un delitto di qualsiasi altro genere, insomma. Probabilmente anche un campo che attira molto il lettore, diciamo. Beh, no? Diciamo, è quello che fa vendere di che più, fa vendere che molto, piace, certo, di più, certo, piace, insomma, che incontra maggiormente l'interesse dei lettori. Bene, bene. Guardate, io potrei continuare così fino a domani mattina, però non lo so, datemi uno stop, perché... No, ecco, per esempio, se al Cairo decide di rapire Marco dagli Aboschi, succederà oggi, quante copie vende in più? Se Al-Qaeda rapisce gli Aboschi, cioè, penso che assolutamente c'è qualcuno che farà festa. Ci sarà un, ecco, tra l'altro, ci sarà un'indifferenza totale. Finalmente lo siamo, se liberati. Se noi ci chiedono il riscatto, guarda, vi diamo i soldi, noi basta, certo, che ve lo tenete. Ecco, vabbè, quindi non fa vendere Marco agli Aboschi, non fa vendere neanche poco, con Al-Qaeda. No, roba. Fa vendere poco. Va bene, allora io direi, allora, di concludere. Siamo in 4-5. Sì. Tu non ti muovere, perché ci hai messo 3 mesi per venire qui, quindi ti prego, quindi proprio, di restare lì e di non muoverti. Allora, io direi di fare un giro, se siete d'accordo, per vedere come passerete il Capodanno. Inizio io, va bene? Vi dispiace? Allora, io non sono una di quelle persone che ama il Capodanno nei locali dove si fa il trenino, dove si fanno queste cose, Cotechino, Zampone, Fettuccine, Paglia e Fieno, Franco Cecconi sa che a cosa mi riferisco. Non mi piace quel genere di festa, diciamo. Ecco. Quindi di Paglia e Fieno ne hai fatti decine di Capodanno, quindi lo sappiamo, ecco, sì, è vero. C'è un locale. Specifichiamo questo. Non ha detto che non li fa, ha detto che non li ama. Non li amo, diciamo. Non ho li ho fatti nel passato e non mi piace di continuare. Ecco, io penso che probabilmente la mia scelta sarà quella di fare un giro a Roma, quindi come ho fatto l'anno scorso, se il tempo ce lo consentirà, ecco, farò un giro a Roma e magari cenando in un normalissimo ristorante e assistendo ai fuochi d'artificio e ad altre cose belle che ci danno questa grande città. Allora, vediamo un po' il vostro di Capodanno, Francesco Sordo. Ma il mio sarà come la notte di Natale, cioè fuochi d'artificio però dentro casa, perché con un bimbo di 9 mesi dentro casa, sì, con un bimbo di 9 mesi. Allerta i vigili del fuoco, perché sono dentro casa, sono già avvertiti di tutto, abbiamo l'estintore, le vie di fuga, perché con un bimbo di 9 mesi i fuochi d'artificio avvengono tutte le sere prima di andare a dormire. Quelli dell'ultimo dell'anno immagino saranno, come particolari. Dire, particolari, unici. Bene, Giuseppe. Ma anch'io non sono un amante dei veglioni, non amo passare il Capodanno con degli sconosciuti, diciamo, ecco, quindi lo passerò in famiglia con qualche parente, poi il giorno dopo con qualche amico e basta così. In passato ce ne andavamo con qualche amico per un paio di giorni così in montagna e anche in quelle occasioni poi ho conosciuto meglio mia moglie e lì poi è nata anche lì in quelle occasioni la quindi il nostra Capodanno storia, fu galeotto nel tuo caso, sì, diciamo. Beh, non proprio il Capodanno, beh, lì incominciava un po' a familiarizzare, ecco. Bene, allora, prima di passare la parola a Francesco Cecconi e di scoprire come sarà il suo Capodanno, voglio ricordare agli amici di Radio Ernica, già ricordano questa cosa, una curiosità di un veglione, ma di carnevale, dove, Franco, cosa successe? A parte un piccolissimo problema, trascurabile problema economico, diciamo, relativo ad una questione di sì, durato più o meno 15 anni, diciamo. Però io non mi riferisco a quello, Franco, mi riferisco al fatto che ci fu una persona che venne lì disse prima che non sarebbe venuta, che non avrebbe partecipato alla festa, e poi? Dopodiché si presentò un clown, se non ricordo male, sì, che nessuno sapeva chi fosse. Non era un clown. Che cos'era? Chi era? Scusami Daniela, perché era un a 15 anni di distanza ancora non so chi fosse quella maestro persona. Di musica, non clown. Un maestro di musica, sì, un maestro di musica con i capelli lunghi. In incognito, sì. Classico. Beh, allora, sentiamo il tuo capodanno. Allora, innanzitutto voglio ricordare un capodanno molto particolare di tanti anni fa, circa 20 anni fa, con un gruppo di amici facemmo una colletta di quelle serie e comprammo una marea di botti. Ah. Dopodiché dice state a casa e li sparate. No, partimmo con 3 macchine e arrivammo sui campi di neve di Campocatino. Arrivati qui, prima ci mettemmo una mezz'ora a fare le classiche slitte con le buste di plastica, eccetera. Vi posso immaginare, potete ben immaginare il tasso alcolico come fosse. Dopodiché a mezzanotte mettemmo a tutto volume dallo stereo molto potente di un mio amico Enrico. Avete presente Smoke on the Water dei Deep Purple? Ecco, mettiamo a tutto volume quel brano e dopo cominciamo a sparare questa marea di botti sulla neve. E questo fu un capodanno quando eravamo ancora ragazzi. Molto alternativo, diciamo. Molto alternativo, se non che a un certo punto arrivarono i carabinieri, giustamente. Ma non tanto per i botti, che era una per cosa. Purple, ma credo, no? Per il fatto di Purple a tutto volume. In effetti. Vabbè, insomma, furono molto, molto benevoli quella nottata. Alla fine facemmo un brindisi tutti quanti assieme e ci dissero: beh, ragazzi, ora che tornate a casa. E infatti, tornammo poi ad Anagni. Bene. Oh, mentre questo da un paio di capodanni a questa parte mi diletto a cucinare il cenone, me lo cucino io. Ecco, quindi passo il pomeriggio. E cosa farai di? Beh, chiaramente zampone, lenticchie, poi cercherò di inventarmi qualche piatto di pesce, diciamo, ecco, una cosetta così. Una cosetta a mestiere, diciamo. Sì, ecco, mi piace molto quando ho tempo libero dedicarmi agli fornelli e poi naturalmente a nanna dopo il brindisi di mezzanotte. Quindi classica ritirata dopo la mezzanotte. Daniela, qualche vabbè, io come capodanno voi non fa amo. Pure, vuoi dirci qualche episodio carino di qualche capodanno fa? Sinceramente non mi viene in mente niente una adesso. Una chiavica di capodanno hai avuto fino adesso, non lo so, possibile, non ce ne sta io uno. Non amo molto il capodanno. Nel ah, senso, non ami il capodanno. Insomma, non è che mi entusiasma particolarmente. Non ti ricordi il capodanno a Ferentino con la radio? C'era anche il nostro esatto. Buon ex collega Gennarino Memoli che fece una specie di tombola napoletana, una cosa. Ecco, io vorrei solo evitare di dire il nome del ristorante perché ci furono delle problematiche, diciamo, di varia natura. Di varia natura, sì. Di varia natura collaterali, quindi evitiamo il nome del ristorante. Prego, Daniela, dimmi. Quindi non mi piacciono i locali, non mi piacciono i veglioni, quindi credo, insomma, ho 2 o 3 possibilità, però sicuramente a casa di amici, senza fare troppo tardi, perché io il 1° di gennaio lavoro. Ah, quindi questa è un'altra criticità di questo lavoro, insomma, si lavora anche il 1° gennaio. Bene, sentiamo anche Aurelio, che invece farà, credo, un capodanno molto tradizionale. Dunque, certamente sono molto attirato dalla faccenda del concerto di Antonello Venditti al Circo Massimo, però debbo confessarvi che ho chiaramente problemi per quanto riguarda il freddo. Io sono un freddoloso, quindi temo che la temperatura sia piuttosto la pancerina finisce. Magari. Beh, vabbè, ma insomma, sai, vorrei evitare, perché poi se uno magari inizia poi alla fine, addio, ormai siamo proprio sul viale del tramonto. Aurelio, ma poi nei pressi del Circo Massimo comunque di notte ci sono molti fuochi, puoi sempre rifocillarti in uno di questi fuochi. Quindi diciamo sono a disposizione del pubblico. Diciamo che seguirò sono un po' quello che è il consiglio di Francesco Cecconi, vale a dire quello di chiaramente dedicarmi alla cucina, quindi un menù ben definito dove chiaramente seduto a tavola con tanta tranquillità concluderò chiaramente questo 2009 e inizierò il 2010, cioè mangiando, quindi questo è proprio l'aspetto. Ma io volevo ricordare quell'aspetto curiosissimo di cui voi avete appena accennato ed era il curioso Capodanno che volevo ricordare in quel ristorante che Radio Ernica appunto all'epoca affittò e che praticamente rese celebre quel famoso Capodanno. Non ricordo l'anno, ma insomma sono diversi gli anni e che praticamente quasi la totalità dei partecipanti ebbe effetti collaterali piuttosto. Guarda, fu il 1984. 1984, quindi pensa un po'. Avemmo, diciamo, degli effetti collaterali piuttosto sgradevoli, un po' tutti. E quindi, per evitare quel tipo di attività, è ovvio che cercheremo di adottare tutti i termini di sicurezza per una cucina sicuramente protetta al massimo. Questo è il Capodanno. Allora, altro giro, quindi stiamo per terminare, però altro giro, quindi abbiamo detto come passeremo il Capodanno, che tipo di scelta faremo, eccetera. Sono appena reduce da Facebook, è appena nato un gruppo sì? Che si chiama "Ma noi che ce ne frega di quello che fate voi a Capodanno", già hanno 3.400 adesioni, quindi tagliamo pure. Noi però siamo in radio, quindi è diversa la cosa. Allora, domanda imbarazzante, a voi però chiedo una risposta sincera. Ok, la domanda però è imbarazzante. Si può anche non rispondere se è una domanda. Si può anche non rispondere, oppure si può anche dire che è una risposta sincera e poi magari invece si dice altro. Questo lo lascio a voi. Vi è mai capitato di pensare: questa persona vorrei che nel prossimo anno non esistesse più? Sola? Quindi non tanto, come dire, il classico augurio, ecco, speriamo che il nuovo anno e via di seguito, no, proprio immaginare, pensare per un attimo ad un nuovo anno senza una persona che vi è particolarmente indigesta. Ma anche per due, per tre, quattro attimi, senza problemi. Vi è capitato? Sì. Allora, sì. Chi inizia il giro? Beh, mica vorrei i nomi. No, voglio soltanto saperne di più. Credo che sia inevitabile, insomma, che ci sono delle persone che a vario titolo, per vari motivi, non digerisci, non sopporti, non stimi, perché magari ecco, c'è anche una persona che non stimi, che... Sì, scusate, forse vi vedo abbastanza tranquilli nella risposta, però non ho finito o non mi sono spiegato bene, ma fino al punto di augurargli la morte... La morte, ma la magari domanda. Una morte dolce, non una morte atroce, magari finire sotto un camion carico di zucchero, che ne so, ecco, quella è una morte dolce. Allora, sentiamo, vediamo un po'. Ma la morte addirittura no, non credo. Una persona che sparisce, nel senso può sparire per tanti motivi, cambia paese, magari cambia la sua posizione, per cui non ho più a che fare con questa persona, perché... Potrebbe essere anche quello. Comunque, insomma, allontanata dalla tua esistenza. Allontanata dalla mia esistenza. La morte sì. No, però insomma, una sorta di morte civile. 3-4 persone. Ah, 3-4, non uno sì. Solo, quindi. 3-4, sì. 3-4. Anche io ne avrei un paio in lista. Quindi diciamo che Daniele Pesce ha una lista di 3-4 nomi. La lista di Franco Cecconi sarà enorme. No, solo un paio. Solo un paio. Giuseppe Russo. Ma io, per quanto mi riguarda, forse siamo in chiusura, quindi ma io rimanderei alla diretta di domani, perché io ne ho parecchie di persone che addirittura non vorrei rivedere. Ma nomi e cognomi. Non vorrei augurare. Naturalmente non vorrei augurare la morte a nessuno, sì, anch'io vorrei augurarmi di non incontrarle più, rivederle, insomma. Di non avere più a che fare con queste Ce ne persone. Sono alcune che magari mi sono particolarmente antipatiche, con le quali, e rispetto alle quali, insomma, condivido un'antipatia con molte persone. Ho capito. Francesco. Non ho mai pensato, sinceramente, a persone che certamente non gli augurerei la morte, però non trovo persone che insomma possa desiderare spariscano dalla mia vista, che si siano particolarmente indigeste. Sì, non lo so, sarà l'ingenuità ancora della mia giovinezza rispetto a, diciamo, alla veneranda età di molti di voi, probabilmente. Grazie, molto grazie Francesco. alle esperienze fatte in passato, che probabilmente più crescono di numero e più insomma sono anche quelle deludenti, certo. Però insomma qualcuno che metterei in naftalina per un po' di tempo, sì, cioè. Ho capito. Allora, Aurelio ha qualcuno da mettere? Il ragazzo è giovane, si farà. Certo, si fa. Sentiamo se Aurelio ha qualcuno da mettere in naftalina, perché penso che potrebbe averci. Quello ce l'ha molto vicino, penso. Dunque, caro Francesco, se non ne hai assolutamente di soggetti, qualcuno te lo presto io, quindi stai tranquillo che di soggetti ce ne sono parecchi. Chiaramente la morte non si augura a nessuno, e per carità e per amor di Dio, però un effetto collaterale, come dicevamo poc'anzi con un ristorante che ci ha, diciamo così, creato qualche piccolo inconveniente tecnico, un effetto collaterale che praticamente ponga, diciamo, da parte per diverso tempo, per qualche annetto, alcuni soggetti, non andrebbe assolutamente male. Un effetto male. Depurativo, diciamo. Esattamente, quindi praticamente una depurazione che gli consente praticamente di ritornare anche, diciamo così, ad un'attività normale, a riflettere sugli errori e quant'altro, e a noi di liberarci della presenza ingombrante di questi soggetti che chiaramente, è ovvio, ci disturbano parecchio, insomma, ecco. E sentiamo Marco. Questa... Io sì, io naturalmente, oltre a fare la domanda, vi do anche la mia risposta. Sì, sì, una bella lista, mediamente lunga, non che però voglio dire mi disturbino in maniera particolare, però insomma ho la mia bella lista che, se in qualche modo il nuovo anno mi togliesse per un annetto queste persone dai rapporti, eccetera, non sarei proprio scontento, anzi sarei felicissimo. Bene, chiudiamo, siamo in chiusura. Domanda di rito, consentitemi, sapete che nella notte di Capodanno sono molte stranezze, mille stranezze, si mangia la lenticchia perché la lenticchia porta soldi, si mangia l'uva che viene lasciata lì a riposare per molto tempo, perché anche mangiare l'uva è un sinonimo di avere molti soldi. Si mangia lo zampone, si indossano capi di abbigliamento intimo di un certo colore perché praticamente il rosso porta bene. Allora, le vostre stranezze in questo ambito, vediamo un po'. Ma sinceramente non mi viene in mente nulla. Nulla di tutto questo, i casi citati non ti interessano? In questo momento, cioè... No. Nemmeno, non curo molto nemmeno la biancheria intima, il colore della biancheria intima. Quindi nemmeno verità, su sì, quello. Sì. Se avessi la possibilità, se mi passassero, diciamo, un capo di abbigliamento color rosa, forse nemmeno me ne accorgerei. Nemmeno te ne accorgeresti. Invece sulla biancheria intima di Francesco Cecconi sappiamo tutto, la conosciamo, conosciamo la tua passione per le giarrettiere. Il mutandone MAP con scritta fosforescente davanti, la portina davanti, classica di questo genere di mutanda, quindi conosciamo il suo abbigliamento intimo. Però il colore, Franco, sarà rosso o la classica MAP bianca? Sempre rosso. Sempre rosso, bene, quindi la farai tingere, perché mi pare che il signore di Colleferro non venda queste attrezzature, diciamo, sexy di colore rosso, diciamo. Francesco. Si sta denudando, se volete facciamo la diretta. No, per carità, no, per carità. Scherziamo, chiaramente. No, non ho di queste abitudini, anche perché le mutande rosse le indosso ogni volta che finiscono quelle normali nel cassetto, che c'è stato tempo di fare la lavatrice, quindi certo, non aspetto Capodanno, ecco. Lenticchie, uva, zampone... Lenticchie, sì, senza dubbio. Ah, adesso sentiamo anche sul cibo. Daniela? Beh, sono quelle cose che non è vero ma ci credo, quindi io tutto, lenticchie, uva e mutande rosse. Ah, quindi tutto. Corollario però classico. Però i soldi poi non arrivano mai, non capisco perché. Corollario classico del Capodanno, senza trovare giovamento, ma diciamo, poco. Nella condizione economica. Io sono curioso di conoscere appunto qual è il capo di biancheria preferito di Aurelio. Sentiamo. Per quanto riguarda il sottoscritto, dopo aver provato per anni chiaramente tutto questo popò di situazioni, per quanto riguarda il sottoscritto, sempre dedicate al fattore mangereccio, mi sembra che insomma ormai siamo arrivati alla determinazione, e con dovizia di particolari e di numeri, che praticamente non ci sta niente da fare. Il denaro è sempre quello, sempre meno chiaramente, per colpa della crisi, per colpa delle tasse, di qualche governo che si alterna ora più o meno di destra o di sinistra, ma insomma la situazione per noi resta sempre negativa in questo senso, quindi probabilmente, forse, vabbè, come diceva Daniele, Daniela, non ci crediamo, ma insomma, va alla fine. Proviamo. Vabbè, andiamo comunque. Proviamo. Anche noi sulle lenticchie. Bene, chiudiamo allora questa ultima cosa di Francesco Cecconi di tipo alimentare e poi saluti naturalmente. Allora, voi sapete che io sono un grande estimatore del pesce, tutti mangiato, lo sanno, cucinato in tutte le sue forme. Allora, la cena della vigilia di Natale, sì, è un classico che nella tradizione vuole che si mangi di magro. Sì. Ora siamo arrivati all'eccesso che invece il pesce di Natale diventano aragoste, molluschi ostriche, pregiati, ostriche, che secondo me è un modo veramente scorretto di interpretare proprio questa, questa vigilia di magro. Allora io personalmente, ripeto, pur stimando il cibo pesce in tutte le sue sfaccettature, la vigilia di Natale sono proprio un cultore della pasta fatta col sugo di tonno come si faceva una volta e con i pescetti sott'acete, ve li ricordate? Scusami Franco, sì, ma ecco, che tipo di pasta? Perché con io in Geo ho mangiato quella pasta, diciamo, non mi viene, quella difficilissima da acchiappare, che si tagliava a metà, come si chiama quella pasta? No, i paccheri, no, i cannelli, insomma, una sorta di tubo. I rigatoni? No, erano quei cannelloni che si spezzavano, che esatto, adesso non si usano più. Non erano, andavano spezzati, erano dei tubicini lunghi. Esatto, i tubicini lunghi che erano il classico, erano la morte sua con il tonno. E comunque no, beh, noi sempre a casa li facevamo con il classico, sì, cioè, spaghetto. Però ecco, la vigilia di Natale perlomeno, ecco, magari l'aragosta la posso mangiare in un altro momento, ma la vigilia di Natale è quella, proprio ricordando i tempi in cui in effetti si mangiava di magro non per altri motivi, ma proprio perché il pesce era quello, non ci, beh, si poteva permettere chissà che grande prelibatezze. C'è ancora qualche amico che magari ci ascolterà che preferisce il maccarello, lo sgombro, probabilmente è andato ad acquistarlo e preferisce quel tipo di pesce. Sarà un nostro amico di Ischia, forse, non lo sì, so. Sì, ama, di Procida, delle isole. È buono però il maccarello. Vabbè. Sì, per carità. Male. Però in genere è associato, diciamo, a chi ha una scarsa disponibilità economica. Dentro. Chi non può poi c'è anche chi non può permettere. Non so, può permettere. Una volta, certo, per esempio, il baccalà era sindomo di scarsa disponibilità economica, adesso se adesso vai a mangiarlo in un ristorante ti mandano parlando da solo. Tra l'altro, una curiosità, voi sapete che non c'è, che differenza c'è tra il baccalà e lo stoccafisso? Domanda, sono due pesci diversi? Vediamo un po'. Io so che si tratta di merluzzi. Daniela? Credo sia la stessa cosa, magari dipende dal tipo di conservazione. Esatto, bravo. È grazie. Sempre il merluzzo che viene lavorato in maniera modo diversa. Bravo, sì. Ok. Va bene, è tornato delle isole Faroe che sono la... No, assolutamente, mi diretto che ad baccalà. No, mi diretto ad ascoltare notizie di cucina e quant'altro. Va bene, grazie, è stata una bellissima serata, veramente, Daniela, grazie. Sì, grazie a voi, facciamo gli auguri a tutti. Tanti auguri. 2010 splendido per tutti. D'accordo, lontano da persone indigeste. Lontane da 3, 4, 5 persone indigeste. Benissimo, allora lascio la parola ad Aurelio che deve presentare invece una intervista. Grazie di nuovo amici ascoltatori. Ciao. Sì, allora concludiamo la serata. Giuseppe ieri ha intervistato per noi un personaggio importante, e chiaramente a Giuseppe va la presentazione questo personaggio, e concludiamo questo nostro spazio odierno proprio con questa intervista. Il personaggio è Chiara Mirante è molto conosciuta nel mondo cattolico, ma in genere nel mondo dell'impegno sociale. Ho intervistato, ho chiesto alcune notizie sulla sua storia, sulla comunità che ha fondato partendo da un piccolo appartamento che poi invece è sfociata in una grande comunità con decine di centri in tutto il mondo e che si occupa del recupero delle situazioni di disagio più drammatiche. Numerose sono anche le sue pubblicazioni, la prima mi pare che sia la prima fra tutte, Stazione Termini, che appunto racconta della sua esperienza iniziata proprio a Stazione Termini tra i tossici, le prostitute e i vagabondi. Questa intervista io ho rivolto questa intervista a Chiara Amirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, ieri sera ad Anagni, presso l'auditorium comunale, in occasione di un concerto che proprio i ragazzi di Nuovi Orizzonti, che hanno formato, di una delle comunità di Nuovi Orizzonti che hanno formato un gruppo, i Giullari dell'Amore, hanno tenuto ad Anagni in un'iniziativa organizzata dalla Contrada, dal gruppo medievale, la Contrada di Colle Sant'Angelo. È stato un concerto di gospel, di musica religiosa, di canzoni composte anche da questi stessi ragazzi del gruppo I Giullari dell'Amore della comunità Nuovi Orizzonti, e al termine di questa intervista noi vi faremo ascoltare un brano di questo concerto, che si chiama appunto È Natale anche per noi, e che dà un po' il senso di quella che è stata l'iniziativa di ieri sera. Allora, Chiara Amirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti. Ciao Chiara, innanzitutto un commento su questa iniziativa di oggi. Ma è un modo per far festa in questo Natale, per la gioia che abbiamo di avere Gesù, l'Emanuele, che non solo è venuto ad abitare in mezzo a noi 2000 anni fa, e questa è la più grande notizia, ma facciamo l'esperienza che lui ci ha promesso che sarà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E lui ha promesso che dove due o più sono uniti nel suo nome, lui è in mezzo a loro. E quindi per noi aver sperimentato questa possibilità di farci rinnovare la vita dalla sua presenza è stata la grande scoperta della nostra vita, e per questo ce la inventiamo tutte per cantare questa scoperta. Bene, brevemente, Chiara, la tua storia è la storia di una comunità che è nata dal niente e oggi è una grande realtà. Ma sì, diciamo, io sono laureata in scienze politiche, quindi non avevo assolutamente in mente di aprire comunità, però penso, come ogni persona, cercavo un po' una risposta a questa sete di pienezza della gioia che c'era nel mio cuore, cercavo un po' qualcosa che desse un senso a quest'unica vita che ho. E c'è stata una pagina del Vangelo che per me è stata un po' una folgorazione, che è la promessa di Gesù in cui dice: rimanete nel mio amore, vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Amatevi come io vi ho amato. Ecco, provando a vivere questa parola ho iniziato a sperimentare una pienezza di gioia che resiste anche alle prove più difficili della vita. In particolare, in seguito a una malattia molto dolorosa, sperimentando che questa gioia così piena che avevo trovato in Gesù resisteva anche alla notizia: resterai cieca, morirai con dolori atroci, ho sentito questo desiderio, ma io questa gioia la voglio portare a chi è più disperato. E così, in seguito a una preghiera molto semplice in cui ho chiesto a Gesù se era lui a mettermi questo desiderio di andare in strada a cercarmi tutti disperati, per testimoniare che lui è venuto a donarci la gioia, a mettermelo in cuore e mi mettesse un minimo nelle condizioni. E è arrivata questa guarigione inaspettata da un giorno all'altro, che anche a detta dei medici era una cosa inspiegabile. E così è iniziata un po' questa che io chiamo l'avventura nell'inferno della strada. E andando in strada di notte ho visto un popolo sterminato che non avrei mai immaginato nel XX secolo di trovare così tanti giovani consumati dalla droga, dall'AIDS, da questi paradisi artificiali, no? Che ti illudono di trovare un po' di sballo lì per lì al dolore, in realtà poi ti conducono in un inferno che si traduce giorno dopo giorno in morte. In particolare sono rimasta tanto colpita da tutto il giro di prostituzione e schiavitù, quindi da tutte queste ragazzine anche molto giovani costrette a prostituirsi con delle violenze inimmaginabili, ed è stato proprio l'abbraccio di una di queste ragazzine, che era il Venerdì Santo, era tutta piena di fango perché era caduta, che mi ha abbracciato e mi ha detto: ti prego Chiara, io non voglio più prostituirmi, fai qualcosa, portami via da questo inferno. è stato proprio da questo grido, che per me è stato il grido di Gesù Crocifisso vivo, che ha dato il desiderio di aprire una comunità dove accogliere questi nuovi fratelli della strada. Ecco, allora sembrava un po' una follia, no? Accogliere questi ragazzi dalla strada, vivere con loro, provare insieme a vivere il Vangelo. Però ci siamo fidati che Dio nulla è impossibile e che Lui avrebbe pensato a questi Suoi figli, e quindi ci siamo abbandonati alla provvidenza. Ecco, in questi pochi anni per me è stato veramente vedere i miracoli che Lui può operare, perché non solo ho visto migliaia e migliaia di giovani passare dalla morte alla vita proprio per aver aperto il loro cuore all'amore di Dio, ecco, ma in pochi anni abbiamo visto anche moltiplicarsi i centri. Adesso sono 139 i centri, cioè centri di accoglienza, centri di formazione, centri di ascolto, centri di spiritualità, 92 centri di servizi in cui ci si impegna appunto in progetti in via di sviluppo, nell'arte, nello spettacolo, nell'editoria, con i media, nell'economia e lavoro. Ecco, ogni giorno si moltiplicano le iniziative ed è veramente bello vedere come questa rivoluzione dell'amore che Gesù ci ha portato è contagiosa, perché oggi sono in più di 80.000 le persone che hanno preso l'impegno di provare a vivere il Vangelo con radicalità, e dove lo sperimentiamo come questa parola di Dio vissuta trasforma la nostra vita e quella di molti. Un'ultima domanda, Chiara. Oggi sembra Natale per davvero, oggi abbiamo finalmente assaporato diciamo le sensazioni che ci dovrebbe trasmettere il vero Natale. Nel nostro paese negli ultimi anni anche la fede spesso viene utilizzata per escludere l'altro, per allontanarlo, e sembra quasi che anche lo stesso Natale a volte sia uno strumento per rivendicare delle identità contro altre identità. Ecco, oggi che è Natale per davvero, Chiara, tu che messaggio vuoi dare a queste persone? Ma io credo, almeno per noi cristiani, che la fede non può mai escludere, anche perché il testamento di Gesù è: Padre, che siano perfetti nell'unità, come tu sei in me, come io sono in te, che siano anch'essi in noi una cosa sola. Quindi credo che se ci diciamo cristiani non possiamo non far nostro il testamento di Gesù, non possiamo non vivere quel: da questo riconosceranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. E se un Dio si è fatto uomo per venire ad abitare in mezzo a noi, ha versato il suo sangue per darci della pienezza, la pienezza della sua gioia, credo che non accogliere il dono di questa gioia e non testimoniarlo a più persone possibili, soprattutto al diverso, soprattutto a chi è in difficoltà, soprattutto a chi è senza casa, proprio così come Gesù ci ha insegnato, è veramente un'omissione gravissima, perché questo dono è costato il sangue di un Dio. Quindi come cristiani abbiamo veramente il dovere di accoglierlo e di testimoniarlo a più persone possibili. Grazie Chiara, qui è Giuseppe Russo con Chiara Mirante, il 27 dicembre, Radio Ernica e radioernica.com. Vogliamo la carità e nemmeno la tua pietà, ma c'è troppa indifferenza tra le nostre vene come disgraziate e ragazze troppo emancipate. C'è solo un muro di violenza. Se per bene il male non vediamo confini, è perché non siamo stati mai bambini e forse non lo saremo mai. Noi, sfrattati dalla vita in subaffitto, noi in una strada senza uscita, chiediamo solo un po' d'amore, niente di più. Nemmeno un cane a farci compagnia, su strade desolate e vagabonde, colorate di nostalgia. Ho l'anima trafitta dall'illusione, umiliazione in più che cosa vuoi che sia, per riempire il vuoto che ho in me. tanti lamenti di chi ormai non si ribella più. Qualcuno ha mangiato con i peccatori, ha sorriso ai malfattori e ha battuto un muro di cemento. Qualcuno le sue orme ha già seguito, è sceso nell'abisso di chi è sfinito, di chi non ce la fa più. È Natale anche per noi, anche se non siamo figli tuoi, siamo figli di qualcuno che ha dato la sua vita per noi, nonostante la vostra indifferenza. Noi esistiamo e gridiamo no, no, no, nonostante la vostra intolleranza, qualcuno ci ha amato. Se tu ci insegnerai che c'è qualcosa di diverso, noi canteremo l'amore e ci crederemo tanto. Se la luce porterai in questo buio fitto e denso, noi mendicanti d'amore ameremo di più. Siamo arrivati al termine, Giuseppe, di questa lunga serata. Abbiamo iniziato con l'intervista a Francesco Scalia e abbiamo concluso con questa intervista a Chiara Amirante. Sì, questo brano dell'intervista di Chiara Amirante con questo anche brano musicale verranno poi pubblicati anche sul nostro sito internet www.radioernica.com. Chiara Amirante, tra l'altro, si è impegnata, cioè ha preso un impegno con noi, ci verrà probabilmente a far visita, oppure noi andremo a fare visita a lei in una delle sue comunità. Sì, chiaramente torneremo a parlare di questi argomenti nelle nostre prossime trasmissioni. A questo punto il saluto a voi tutti, con l'appuntamento chiaramente rinnovato domani. Buonasera.